tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Calendario anticlericale 2021, info@siciliolibertaria.it. E cominciamo da un articolo dell'Espresso apparso al settimanale il 28 febbraio 2021. Processo Vaticano. Svizzera, Malta, si stanno per chiudere le indagini sul Cardinal Becciu. L'inchiesta segue soldi che vanno dall'obolo di San Pietro alla speculazione, più speculazione che altro. Insomma, l'articolo spiega questo ennesimo scandalo affaristico del Vaticano. Proventi della speculazione sul Palazzo di Londra usati per aiutare Mincione, un affarista, in difficoltà per la tentata scalata alla Cassa di Genova, insomma tutto tranne che spirito cristiano. Veniamo poi a Levante News su internet, Lavagna, che è un comune in provincia di Genova, campane moleste. Il parroco Don Stefano dovrà pagare ben 65.000 euro per le sue campane spaccatimpani. Grande vittoria atea anticlericale. Maxi truffa dei titoli spazzatura dalla Repubblica del 3 marzo 2021. Ai domiciliari il broker del Palazzo Vaticano a Londra, la solita chiesa e affarismo. Sulla Repubblica, Milano Cronaca, 8 marzo 2021, un ampio articolo su una professoressa clerico-fascista, negazionista, omofoba, insomma che ne ha fatti tutti i colori, e quindi è stato denunciato con questo articolo di giornale, un articolo di sapore anticlericale. Su Fatto Quotidiano, chiesa e criminalità del 7 marzo 2021, il ritorno del pregiudicato criminale tredicine, ora fa comizi elettorali a Roma col clerico fascista Gasparri. Dalla Calabria, il solito Santone, i carabinieri di Reggio Calabria arrestano questo Santone che diceva di incarnare lo Spirito Santo. Solito caso di abuso della credulità popolare. Fai sesso con me. Abbiamo poi dalla lontana Asia, a Timor Est, un prete americano che era scappato lì, articolo dell'Associated Press del 22 febbraio 2021, era scappato lì appunto quanto pedofilo, e anche lì aveva abusato di giovani ragazze, insomma è finito su internet. Un prete che officiava dei finti matrimoni per carpire delle eredità a un anziano in Catalogna, è finito su internet anche lui, 23 gennaio 2021, insomma condannato a ben 8 anni di prigione, ben gli sta al prete. Poi abbiamo, sempre sui misfatti della Chiesa, 8 febbraio 2021, cosa è successo? Ce lo dice elpais.com, qui siamo in Spagna. Una giuria di Valladolid condanna un prete a 3 anni di carcere per abuso sessuale su un minore, contro in particolare una bambina di 13 anni, i soliti preti maledetti. Da Wikipedia, mi è capitato sott'occhio questa voce, Porta Angelica, perché questa porta delle mura leonine cosa aveva? All'inizio del Settecento, sull'attico della porta vennero aggiunte delle gabbiette di ferro, non per mettere le reliquie dei santi, ma le teste dei giustiziati, pena di morte nello stato della Chiesa, altro che ama il prossimo tuo. Secondo una prassi consolidata da secoli a Roma, in Vaticano, che voleva che i condannati a morte fossero esposti al pubblico. La prima testa ingabbiata, 1703, apparteneva a tal Mattia Troiani, che aveva rubato a un monsignore, eccetera, eccetera. Abbiamo poi sempre da internet, da Bishop Accountability, che è un sito inglese americano di preti pedofili, sono migliaia e migliaia di preti pedofili. Veniamo a sapere che a Ciudad Juarez in Messico, proprio a El Paso Times, no? Proprio siamo al confine tra Messico e Stati Uniti, questo prete, Don Aristeo Trinidad Baca, cosa ne ha combinato? Violentava le chirichette e quindi è stato condannato addirittura a 34 anni di prigione. Molto bene, molto bene. Allora, poi veniamo da US News, tratto da internet, 16 febbraio 2021. Vediamo questo prete maledetto pedofilo di York in Pennsylvania, cosa ha combinato? Indecent assault and corruption of minors, insomma era un prete pedofilo che assaliva i ragazzini e è stato messo in prova vista la sua tarda età, no? E comunque insomma la sua colpevolezza è stata riconosciuta. Abbiamo poi dal quotidiano nazionale del 26 febbraio il processo in Vaticano dei preti pedofili, anche lì. Allora, il vescovo di Como è stato costretto ad andare a Roma a testimoniare su questo prete pedofilo. Aveva una tendenza omosessuale transitoria. Ascoltato come testimone in Vaticano il vescovo di Como. Poveraccio. Allora, veniamo ora dal Fatto Quotidiano che ci informa del 10 marzo 2021, ci informa figli coppie gay, vuoto normativo da colmare. Per colpa dei clericali reazionari oscurantisti, in Vaticano mancano delle leggi che regolamentino questa questione. Dal Giorno del 11 marzo 2021, pagina 7 con due puntini, denunciò i morti da Covid, cacciato e reintegrato all'istituto religioso Palazzolo Dognocchi. Invece di premiarlo, che aiuta il prossimo, che si dà da fare per la gente, l'hanno licenziato, questo povero signor Romolo Amala Diop, difeso dall'avvocato Romolo Reboa, e nelle RSA lombarde sono morte ben 700 anziani per la negligenza degli istituti anche religiosi che dovevano salvaguardarli. Dalla Repubblica dell'11 marzo, la maleducation, si parla male di comunione e liberazione e di una cooperativa sociale che diffama i gay, a pagina 25. I genitori di Renzi, scandali dei filoclericali, ex democristiano, rinviato a giudizio per bancarotta. Adesso vedremo poi come va a finire. La pedofilia ecclesiastica è un fattore strutturale e non occasionale della Chiesa Cattolica Romana. Ricordiamo questo libro di Massimo Mori, Salvatore Veca, Illuminismo, Carocce Editore 2019. Complesso saggio accademico corredato da nutrita bibliografia, testi di 11 autori, tratti comuni sull'illuminismo, che segna svolta antropologica sfociata nella cosiddetta religione dell'umanità, in netta deviazione da quella dogmatica tradizionale cattolica. Le religioni sono solo sistemi di credenze elaborate da preti, maghi e impostori. Rivalutazione della ragione come forza che deve illuminare e dirigere il mondo. Universalismo della libertà di pensiero che deve essere garantita a tutto il popolo. Poi ci sono vari riferimenti a Giordano Bruno, alle censure, ai roghi di libri ateistici, eccetera, eccetera. La rivoluzione della pillola in Italia. Così la maternità diventò una scelta. Dal quotidiano nazionale dell'8 marzo 2021, pagina 10. 50 anni fa la Consulta fece cadere il divieto del contraccettivo. Il giornale riporta ottime foto di manifestazioni ateo-anticlericali. Veniamo poi a Rai Storia di giovedì 11 marzo, che ha dedicato un incontro a Alighiero Tondi, Vaticano e neofascismo. Questo era un gesuita che gettò la tonaca, si sposò e scrisse questo libro, Vaticano e neofascismo, negli anni 50. Costume generale e costante della politica clericale e allearsi pur di mantenere sciagurati privilegi perfino con nemici dell'ideologia cristiana come sono i nazifascisti. Tutto ciò ben nascosto dietro una maschera melliflua o altisonante. collusione del Vaticano, azione cattolica e democrazia cristiana con i fascisti. I clericali continuano a manovrare nel modo in cui sempre hanno manovrato sotto banco. E qui magari ritorneremo nelle prossime puntate su questo libretto di questo gesuita passato dalla nostra parte. Sorgente di vita, Rai 2 di domenica 28 febbraio, la rubrica ebraica, si ricorda l'abbruciamento dei marrani di Ancona. Chi erano i marrani? Erano quegli ebrei obbligati a convertirsi alla Chiesa Cattolica, gli ebrei spagnoli. Ben 25 esseri umani furono bruciati dai preti a Roma, ad Ancona, nel 500. E c'è ancora oggi una targa che è stata restaurata in piazza Malatesta, che ricorda questa ennesima mostruosità clericale. Su Rai Premium il 6 marzo è stato mandato il film storico Suor Pascalina nel cuore della fede, che è la presunta amante di Papa Pio XII. E sembra un film agiografico, ma ci infila dentro tante cose contro la Chiesa, tra cui l'auto di lusso del Papa, che i suoi anelli d'oro, poi i famosi canarini. Attenzione, che i preti sì, tenevano i canarini, ma gli bucavano gli occhi per farli cantare meglio. C'è addirittura, è stata ripresa per brevemente nel film, la vignetta di Suor Pascalina con il Papa. Il famoso telefono d'oro di Pio XII è anch'esso ripreso nel film. E alla fine frasi significative sul suo silenzio. Viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica, sia all'ora alternativa. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Carissimi, arrivederci alla prossima puntata. Stessa natura, aspetta solo semi e che arrivi un acquazzone. Alle scuole ce l'han detto da tempo che niente al mondo si distrugge e che niente si crea, che tutto si trasforma, quindi tutto torna, cambia solo forma. Anche il coraggio dei nostri personali eroi a volte resterai una presenza fortissima. E a volte coscer hai scavato un solco profondissimo. Non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che dici tu fagli dentro. Orso, quello che c'hai scritto non mi fa stare zitto, da sulla bocca ad ogni tuo compagno. Orso, tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. E volte con scelto, partigiano, lottatore. E volte con scelto, ammazzavi, ma solo per amore. Quella volta a Refredi c'era proprio tanta gente. Quella volta a Refredi la ricorderanno tutti gli uomini son fatti di memoria. Idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto ed emozioni. E adesso i sulchi sono pieni di semi. E adesso i sulchi sono pieni di semi. Adesso i sulchi sono pieni di semi. I sulchi sono pieni di semi. Forse non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che ci andavi a capo finto. Forse quello che c'hai scritto colpisce dritto dritto, sta nella testa ad ogni tuo compagno. Forse tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. E volte coscer, la tua è una scelta giustissima. E volte coscer, le tue parole mi fanno sentire minuscolo. Hai lasciato il cuore. E volte coscer, sei una goccia di splendore. Se dici che sei morto col sorriso stampato sopra il viso, facciamo che mi fido. E volte cos'è, tu sei una cosa bellissima. Tutti i